sera non parla, sta sempre da sola. Quando il silenzio le afferra la gola, lo appoggia al collo che sembra una sciarpa. Scruta il paesaggio nel vetro che appanna, gira uno sguardo. Oh,